bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Abbiamo già parlato nei mesi scorsi di questa crisi economica, una crisi epocale, che fra 50 anni i libri di storia descriveranno di portata simile o addirittura superiore a quella del 29. Abbiamo già analizzato le cause di questa crisi, i giochi di certa finanza e la scarsa valorizzazione in questo mondo delle dimensioni etiche e morali dell'individuo. Ma i risvolti etici di questa crisi non si limitano al campo delle cause, ma anche a quello delle conseguenze che questa porterà e già sta portando. Perché non si può uscire dalla crisi non si esce, o meglio, non si può fare retromarcia, non si può tornare al prima e poi andare avanti fingendo che non sia successo niente. La crisi si potrà solo superare andando avanti, cambiando. E questo non tanto e non solo con aggiustamenti tecnici, ma con un profondo cambio di prospettiva nei campi della morale e dell'etica. Ci sarà bisogno di una vera e propria civilizzazione dell'economia, che sia insomma ben distante dalle praterie del Far West, dove speculatori e affaristi hanno depredato per decenni, come i banditi dei film di John Wayne, il bestiame delle buste paga dei cittadini e le diligenze dei debiti pubblici degli stati sovrani. In questi giorni a Padova si svolgono due convegni che richiamano le idee di Toniolo, beatificato nella scorsa primavera, e possono offrirci degli spunti fondamentali per porre le basi di un nuovo futuro. Il convegno che si è tenuto la settimana scorsa, il 21 novembre, a Campo d'Arsego, su Wallenburg, Toniolo e Longhin, e quello di sabato 1 dicembre alle 9 nell'Aula Magna del Bo di Padova, che ha addirittura come titolo Giuseppe Toniolo, l'etica nell'economia. Sentiamo le parole, attuali più che mai, del beato Toniolo. Dal Trattato di Economia Sociale del Beato Giuseppe Toniolo. Chi si faccia ad investigare negli scrittori di economia politica, dagli esordi della scienza fino a noi, l'argomento dei moventi dell'attività umana e quindi il principio dinamico nel meccanismo della società economica, agevolmente rileva come tutti si accordino a riconoscere quest'ultimo nell'interesse personale. L'idea non cadeva certo lungi dal vero. L'interesse personale esercita una grande funzione nel magistero della vita individuale e collettiva tutta intera. Ma da questo concetto, che fa dell'interesse individuale uno degli impulsi massimi dell'umana operosità, all'affermarlo unico motore era facile il passo. E la linea fu inavvertitamente trascorsa da tutti, o pressoché tutti gli economisti, i quali posero in quello il fondamento esclusivo della vita economica ed eressero sul medesimo l'intero edificio della scienza. Bentornati carissimi ascoltatori, è con noi il professor Benedetto Gui, economista, che ben conosce la cooperazione. Grazie per essere con noi, professore. Di nulla, è un piacere. Vogliamo cominciare partendo dalle parole di Toniolo. Ci può dare un commento su queste parole scritte più di un secolo fa, ma così lungimiranti? Beh, effettivamente le ho rilette in questa circostanza e potrei sottoscriverle pienamente, anzi direi che esprimono bene quello che dopo tanto scervellamento potrei cercare di dire, anche alla luce delle più recenti tendenze della scienza economica. Ecco, Toniolo, ma come lui anche altri, nei suoi scritti lascia intravedere i prodromi di questo modello, del modello cooperativo. E ci può spiegare i capisaldi di questo modello e in che modo questi stimoli possono esserci utili in questo momento di crisi, in questo momento di congiuntura? Sì, beh, potremmo dire così che l'idea della cooperazione è un'idea di economia del noi. Quindi un gruppo che poi storicamente è di soggetti economici in una posizione debole si rende conto che collaborando può migliorare la propria posizione. Storicamente si dice che furono un gruppo di cittadini, poveri operai, che dovevano pagare molto cari i generi alimentari, a mettersi d'accordo nella cittadina di Rockdale negli Stati Uniti per fare una cooperativa di consumo, quindi per ottenere a migliori condizioni per tutti i generi alimentari di cui avevano bisogno. Però così poi si mossero agricoltori per cercare di trasformare e vendere il loro latte insieme in modo da ottenere di più. Oggi c'è una nuova necessità di collaborazione, perché in qualche modo la crisi ha reso inefficaci, diciamo, i meccanismi macro del sistema economico. Mi spiego. Noi otteniamo un lavoro e otteniamo i nostri beni perché funziona una complessa macchina che incanala la produzione da molti chilometri di distanza, ce la fa arrivare e ci dà anche in questo modo posti di lavoro. Se si blocca questo meccanismo, almeno in parte, come è successo adesso, rischiamo di rimanere con le risorse inutilizzate, cioè persone che saprebbero e vorrebbero lavorare da una parte e i bisogni insoddisfatti dall'altra. Qui la cooperazione può certamente trovare nuove forme. Naturalmente partiamo, la più semplice da spiegare sono le cosiddette banche del tempo o sistemi locali di scambio, nel senso che si scavalca il passaggio attraverso la moneta e si cerca di creare un cortocircuito positivo tra chi ha capacità di fornire un servizio o un bene e tra chi ne ha necessità, e la capacità di ognuno diventa la moneta per acquistare il servizio dell'altro. Questo è un discorso molto semplice, ma che in qualche modo anche funziona, ma diciamo, secondo questa logica del insieme, se vogliamo, possiamo valorizzare le nostre risorse, ha molto da dire anche oggi. Ecco, come si può, secondo lei, sintetizzare l'etica nell'economia secondo il pensiero di Toniolo? Ma vorrei dire soprattutto questo: se noi descriviamo gli esseri umani come delle persone che hanno dei bisogni soprattutto materiali, allora il meglio per ogni persona è ottenere più beni possibile. Solo che dopo, allora a questo punto entra l'etica e dice: guarda che ci sono anche gli altri, quindi rinuncia un po' a realizzare al massimo i tuoi obiettivi per accontentare un pochino anche le esigenze degli altri. Ecco, questa è una descrizione dà un'idea di soggetto, di persona umana troppo semplice, e non è quello che Toniolo ha cercato di far entrare. Lui parte dall'idea: le persone non sono fatte così, non hanno solo interessi materiali. Quindi intanto, quando descriviamo gli avvenimenti, ci rendiamo conto che le cose si muovono anche secondo altre logiche. E questa è una prima osservazione. Cioè, come dire, gli elementi etici contano, basta vedere come le persone agiscono. Secondo passaggio: se l'idea di uomo è di un soggetto che ha una molteplicità di obiettivi, la cui realizzazione personale richiede molto altro, come la capacità di crescere nel rapporto con gli altri, anche nella capacità di andare oltre le proprie esigenze, allora è chiaro che da questa descrizione delle persone, cosa possiamo augurare per il bene delle persone? Che riescano anche a fare questo, quindi che riescano anche a essere soggetti collaborativi, soggetti capaci di realizzare se stessi nell'apertura agli altri. Ecco, grazie infinite, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Un amore Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con il professor Benedetto Gui, economista. Stiamo ritornando sulla figura di Toniolo, ma questa volta, a differenza dell'aprile scorso, non vogliamo tanto soffermarci sul Toniolo beato, ma più che altro sul Toniolo economista, che ci può essere utile anche in questo periodo di congiuntura per darci qualche idea per poter ripartire, andare avanti, superare la crisi, insomma, e non tornare indietro. Nell'ambiente universitario le idee di Toniolo non hanno avuto così tanta fortuna di primo acchito. Ecco, perché il pensiero per il rapporto tra etica ed economia possiamo dire che in qualche modo fu emarginato nell'accademia? Penso che siano vari fattori. Beh, uno è che tutte le scienze sono nate in qualche modo in contrapposizione all'approccio tradizionale ai problemi, che era fortemente etico. E quindi le scienze dicono, momentino, prima di arrivare a dare delle prescrizioni, dei precetti, noi vogliamo scoprire il mondo. Quindi diciamo, c'era una certa ostilità all'etica, o perlomeno riluttanza, un timore che mettendo dentro questa dimensione si perdesse la scientificità. Questa è una prima ragione. Beh, un'altra è che questa, che almeno per la scienza economica, che come tutti sanno ha basato tutta la sua analisi sull'idea che ciascun soggetto fosse mosso dal proprio interesse personale. Beh, questa ipotesi rende molto più semplice l'analisi, perché un soggetto economico di cui è facile capire da che parte vanno gli interessi e le spinte, un soggetto così entra bene nell'analisi, è facile arrivare alle conclusioni. Mentre l'idea di inserire nell'analisi economica un'idea di uomo complesso con una molteplicità di motivazioni, di elementi, complica maledettamente le cose. Ma purtroppo il mondo è complicato. Beh, poi forse c'è anche una terza ragione, che i messaggi, gli insegnamenti che venivano fuori da questa economia tutta semplice, diciamo, che guardava gli aspetti materiali e autointeressati, faceva anche comodo al mondo della grande impresa, del capitale, e quindi era più, diciamo, attraente finanziare studi in quella direzione anziché altre. Ecco. Però le cose sono abbastanza cambiate, cioè negli ultimi 30 anni c'è stato un grande cambiamento di atteggiamento da questo punto di vista, nel senso che sono state ammesse, diciamo così, nel tempio della scienza economica analisi, riflessioni che introducono molti di questi elementi di complessità, cominciando dall'altruismo, che è il più facile, la reciprocità, il valore economico delle relazioni. Insomma, la rivincita del capitale sociale. Ecco, beh, la parola capitale sociale sta, diciamo, in questo, all'interno di questo tipo di cambiamento, cioè l'idea è che prendiamo una comunità come può essere un piccolo comune, sì. Allora quella comunità ha, diciamo, un capitale pubblico che è costituito dalle strade, i ponti, gli impianti di illuminazione, e questo tutti lo capiscono, però diciamo, le potenzialità di quella comunità dipendono anche da una cosa più intangibile, che è la rete di rapporti di fiducia, di conoscenza reciproca e anche di reti collaborative già create lì. E si capisce che dove c'è questo capitale sociale più facilmente possono nascere delle risposte ai problemi di quella comunità, sia sul piano politico ma anche sul piano economico. Ecco, dunque possiamo dire che, a differenza magari di quello che è successo nei mercati finanziari di questi anni, almeno dal punto di vista accademico non c'è più questa tendenza di scindere l'etica dall'economia. Diciamo che rimane molto la tradizione passata, ma ci sono crescenti segnali di una attenzione a un'idea di uomo più complesso, da cui discende un'etica più ricca. Nel senso che se l'idea di uomo è di uno che cerca il massimo risultato materiale, quale potrà essere l'etica? Cerchiamo di far funzionare al meglio la macchina economica in modo che produca al massimo di beni. Sì. E quindi niente più di questo. Ecco, se quando invece, per esempio, non ho citato prima un altro tema che oggi è entrato nella riflessione economica, che viene dalla psicologia, quello delle cosiddette motivazioni intrinseche. Cioè la gente si impegna non solo perché ha la prospettiva di un aumento di paga o di un premio di produzione, ma anche perché dà un valore in se stessa all'attività che svolge. Questa è una delle ragioni per cui, per esempio, le cooperative sociali che fanno servizi alle persone in necessità riescono a trovare persone di qualità disposte a lavorare con grande impegno anche se il livello delle paghe non è alto. Se riconosciamo che esistono queste cose, sono importanti per le persone, allora qual è un buon sistema economico? Uno che permette alle persone anche di esprimere queste desiderio di essere utile attraverso l'attività che svolge. E da qui viene quindi evidentemente un'etica anche economica diversa. Ecco, quindi in una battuta, Feuerbach è l'uomo e ciò che mangia, lo mettiamo nel cassetto. Una battuta in breve, ci dà in 30 secondi una definizione di economia civile? 30 secondi, allora io direi questo. C'è questo autore napoletano, primo docente di economia civile del 1750, che parla di economia, sistema economico come mutua assistenza, cioè riconosce che esiste il mercato, che nel mercato ognuno deve ricercare, è naturale che ricerchi il soddisfacimento delle proprie esigenze, ma fondamentalmente il sistema economico è un meccanismo di mutua assistenza e questo, come sottolinea, sta dentro l'atteggiamento che ciascuno si porta o dovrebbe portarsi nell'attività economica. Ecco, grazie per queste indicazioni. Insomma, c'è molto al di là, insomma, del valore economico, ma c'è qualcos'altro. Grazie per averci fornito, insomma, le sue riflessioni. Grazie, professore, per essere stato con noi. Di nulla, un saluto a tutti. Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul podcast sul nostro sito o potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.